TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'Italia verso il sì all'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, che riunisce Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. I riflessi sull'agricoltura regionale, mentre a Parigi, per protesta, gli agricoltori francesi bloccano le strade contro l'accordo. Dopo le nevicate in Friuli Venezia Giulia è arrivato il gelo, che su pianura e costa non era così intenso da 7 anni. Temperature abbondantemente sotto lo zero un po' ovunque e record di meno 20 gradi a Fusina. Il premio Nonino diventa biennale più internazionale. La prossima edizione si terrà il 30 gennaio del 2027 nelle distillerie di Ronchi di Percoto. Quest'anno eventi e dialoghi a Parigi. Dedicato agli adolescenti, il giornalino scolastico proposto in Carnia dalla cooperativa Itaca, parte di un progetto più ampio rivolto anche agli anziani. Ancora un cordiale buongiorno per questa seconda edizione del nostro giornale radio da Lara Zani e da Elisabetta Zaccolo in studio. Il nostro governo ha dato il consenso alla definitiva entrata in vigore del Mercosur, l'accordo commerciale di libero scambio tra l'Unione Europea e l'area di 5 paesi sudamericani legati tra loro da un'alleanza di cooperazione per il mercato comune. L'Italia, assieme alla Francia, si era opposta a più riprese a questo accordo e proprio in Francia, a Parigi, si registrano le proteste più accese, con centinaia di agricoltori che sui trattori hanno circondato la Tour Eiffel e l'Arco di Trionfo. Ma quali sono le reazioni in regione? Sentiamo il servizio. L'industria spinge, l'agricoltura frena. Si ripropone anche in Friuli Venezia Giulia il posizionamento nazionale sull'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Sud America e il Mercosur. Il governo italiano ha accolto con soddisfazione l'anticipo concesso dalla Commissione di 45 miliardi di euro per la politica agricola comune, e proprio Roma è il lago della bilancia per l'eventuale firma dell'accordo. Lo scambio tra finanziamenti europei per il settore primario e Mercosur tuttavia non convince i rappresentanti dell'agricoltura, che il 18 dicembre avevano manifestato a Bruxelles tutta la propria contrarietà. Le 3 principali organizzazioni, Coldiretti, Confagricoltura e CIA, temono un'invasione di beni a basso costo con standard qualitativi e produttivi inferiori. Il danno maggiore arriverebbe per i seminativi, la carne rossa si prevede, con possibili risvolti positivi per il vino, sostiene Franco Clementin, presidente regionale di CIA. Umberto Daneluzzi, direttore regionale di Confagricoltura, sottolinea che sarà fondamentale costruire un sistema di controlli doganali per evitare che entrino in Europa sostanze vetate. Critica anche Coldiretti, secondo cui è necessaria reciprocità. Il mondo della manifattura invece mette l'accento sull'importanza di rafforzare gli scambi commerciali con un'area del globo con un grande potenziale in termini di capacità di acquisto dei nostri beni. Non è un caso che Confindustria sia decisamente favorevole alla stipula dell'accordo. Il presidente degli industriali di Udine, Luigino Pozzo, ritiene che dopo 20 anni di negoziati sia arrivata l'ora di stringere finalmente l'intesa. È una scelta strategica molto importante anche dal punto di vista geopolitico, dopo i dazi imposti dagli Stati Uniti, sostiene il presidente Pozzo. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo le nevicate in Friuli Venezia Giulia è arrivato il gelo, temperature abbondantemente sotto lo zero un po' ovunque e record di meno 20 gradi a Fusina. Una gelata così intensa ed estesa su pianura e costa non si vedeva da almeno 7-8 anni, rileva l'ARPA, sulla scorta delle minime registrate nella notte dalle oltre 200 centraline sparse sul territorio della regione. Le temperature sono scese sotto lo zero su tutto il Friuli Venezia Giulia, in pianura con valori estremi tra i meno 7 e meno 8 gradi e fino a meno 10 in alcune località molto particolari. A Gorizia a meno 8 gradi non accadeva dal 2021, così anche per i meno 7 di Udine, mentre per i meno 7 registrati a Pordenone bisogna tornare indietro al 2018, freddo meno intenso a Trieste, che comunque è andata a meno 1 come non accadeva da 5 anni. Valori più bassi si sono misurati nelle periferie, in tutta la fascia pedemontana. Nel pordenonese si segnalano Vivaro meno 9, Cordenon, Saviano e Spilimbergo a meno 8, stessi valori nell'udinese e nelle valli del Natisone, da Attimis a meno 10, a Pradamano e San Pietro Natisone a meno 9, a Osoppo a meno 8, nell'Isontino spicca Savogna meno 8, sulla costa notevoli meno 6 di Fassano Salon di Grado, temperature leggermente più elevate a Monfalcone, Grado, Lignano con meno 2 gradi, notevole anche la minima di meno 4 gradi a Muggia. A Trieste, in periferia, le temperature hanno raggiunto i meno 7 gradi in zona ospedale di Cattinara e sulla parte più alta del Carso in meno 10, come anche tra Basovizza e Padriciano. In montagna il record della nottata, Fusine, meno 20 gradi, come già 3 anni fa, rileva sempre l'ARPA, minime a meno 16 a Tarvisio e a Sappada e valori tra i meno 11 e meno 13 in molte altre località montane. Ha fatto più freddo a Fondovalle piuttosto che in quota, con minime che non si registravano da qualche anno. Questa fase di freddo intenso si sta attenuando, già le temperature si sono portate sopra lo zero in pianura e sulla costa, ma stando alle previsioni potrà ricapitare intorno all'inizio della prossima settimana. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E allora diamo un'occhiata al tempo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 3 gradi e mezzo, a Udine Gorizia 1 grado, a Pordenone 0 gradi, a Piancavallo meno 1, a Forni di Sopra meno 2 gradi e mezzo, a Tolmezzo meno 3, a Sappada meno 6, a Tarvisio meno 7, sul Monte Zoncolan meno 6 gradi, sul Monte Lussari meno 7, a Grado e Lignano 1 grado. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, temperature sotto la norma. In qualche maniera rimaniamo in tema perché parliamo dell'accoglienza dei senza tetto. A Trieste attivi 235 posti letto, rete quadruplicata negli ultimi 4 anni, eppure restano molti richiedenti asilo a dormire all'addiaccio. Uno di loro è stato ricoverato per inalazione di monossido di carbonio sprigionato da un fuoco acceso per riscaldarsi. Piazza Libertà freddissima e deserta, e da lontano sembrano vuoti anche i magazzini abbandonati di Porto Vecchio, ma poi basta avvicinarsi un po' per scorgere qualche richiedente asilo, cercare il riparo tra quelle mura. In queste giornate freddissime di inizio anno a Trieste, secondo le associazioni che si occupano di persone migranti, sono un centinaio, ma possono essere anche di più perché il numero oscilla, i richiedenti asilo che dormono all'addiaccio e frequentissimi ricoveri di persone stremate dal freddo. A dirlo Lorena Fornasir di Linea d'Ombra, che in un post sui social pubblica la foto dell'ultimo ragazzo ricoverato per inalazioni da monossido di carbonio sprigionate dalle fiamme di un fuoco acceso per scaldarsi. Ancora pochi minuti e il monossido se lo sarebbe portato via, scrive Lorena, che con il marito poi hanno ospitato questo giovane di circa 30 anni, perseguitato politico del Kashmir, torturato in Libia. È a Trieste da 2 mesi e mezzo, tutti vissuti in strada. Oggi Lorena lo ha accompagnato a Gorizia, forse lì una soluzione si sta trovando. Gianandrea Franchi, il marito di Lorena, è appunto che con lei da anni ormai, è in strada in Piazza 2019, Libertà ogni sera. Queste situazioni sono sempre più frequenti perché c'è appunto, cercano di scaldarsi, ma poi c'è anche tutto il tema che si ammalano anche loro. Sì, certamente, in questo clima è tollerabile che delle persone che sono già debilitate perché vengono da un cammino terribile e che arrivano qui e sono in fase di preaccoglienza, diciamo, senza contare i migranti in transito, che quelli poi non li bada nessuno tranne noi, quelli sono esseri umani inesistenti per lo Stato, ma per quel che riguarda i migranti che comunque hanno manifestato la volontà di fare domanda d'accoglienza, anche questi nella fase intermedia, che può durare moltissimo tempo, sono abbandonati a se stessi. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Diversi feriti, nessuno dei quali grave, e disagi al traffico sono il bilancio di un incidente che questa mattina a Trieste ha coinvolto 2 vetture all'incrocio fra via Brigata Casale e via Carnaro. Il sinistro ha comportato la chiusura di via Brigata Casale nell'area dell'incrocio. In occasione dell'Epifania, i carabinieri del Comando Provinciale di Udine sono stati impegnati in una serie di servizi di vigilanza straordinaria del territorio che hanno portato ad adottare una serie di misure nei confronti di 6 persone. Un 39enne friulano è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali per aver colpito al capo con un bicchiere un altro avventore in un bar della provincia. Un 45enne friulano è stato tratto in arresto a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni che gli erano state imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Un 29enne e un 45enne friulani sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. e sono stati risultati positivi all'alcol test dopo incidenti stradali. Un 49enne friulano infine è stato segnalato per il reato di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico per aver esibito un permesso provvisorio di guida a seguito di una denuncia di smarrimento del documento, mentre in realtà non era in possesso della patente da più di un anno a seguito di un provvedimento di revisione emesso dalla motorizzazione civile. Nuova dimensione biennale per il premio Nonino, la cui prossima edizione si terrà il 30 gennaio del 2027 a Ronchi di Percoto. Quest'anno invece spazio a eventi e incontri a Parigi. Una piccola rivoluzione. Dopo l'edizione 50 dell'anno scorso, il premio Nonino, uno degli appuntamenti culturali più importanti in regione, diventa biennale, nel nome di Benito Nonino, deceduto un anno fa, e di mamma Giannola, ancora importante sia in azienda che nell'organizzazione del premio. La famiglia, che distilla grappa da ormai 130 anni, ha deciso di aumentare la sua dimensione internazionale. Negli anni dispari, la tradizione cerimonia in Friuli, in quelli pari, dialoghi ed eventi ad altissimo profilo, partendo dalle capitali europee accentratrici di cultura. Il via in primavera da Parigi con membri della giuria e premiati del passato, con un occhio di riguardo per il rispetto della terra e dell'uomo in un mondo in continua evoluzione. Antonella Nonino, responsabile Premio Nonino. Una città a cui siamo legati da tantissimi anni, molti dei membri della giuria risiedono proprio nella capitale francese e con la cultura francese abbiamo avuto sempre grandissimi legami. Non dimentichiamo, per esempio, sin dall'inizio alcuni dei più importanti premiati, mi vengono in mente Claude Lévi-Strauss, ma anche Peter Brook, Emmanuel Erol-Adourie, Michel Serre, sono veramente dei punti di riferimento di tutta la cultura mondiale. La prossima edizione del premio vero e proprio il 30 gennaio del 2027 a Ronchi di Percoto, per celebrare ancora una volta cultura, territorio e la visione industriale, e per non dimenticare il legame con le origini. Non solo non si rischia di perdere il legame col nostro Friuli, ma addirittura in qualche modo il Friuli viene ancora più enfatizzato, in quanto lo portiamo, come facciamo da tantissimi anni, in tutto il mondo. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In una conferenza stampa la CGIL ha portato oggi all'attenzione il nodo di una norma disattesa che prevede dove dovrebbero confluire i risparmi ottenuti dalla digitalizzazione nella pubblica amministrazione, ma, sottolinea il sindacato, questa norma non viene attuata. CGIL aziona insieme con un approccio pragmatico a dirimere una questione messa da parte da troppo tempo. La strana coppia, spesso su posizioni lontane, fa fronte comune e chiede al governo l'immediata attuazione dei decreti che prevedono la quantificazione dei risparmi digitali nella pubblica amministrazione. Mafalda Ferletti, funzione pubblica CGIL, ha evidenziato che esiste da anni una norma che impone di stimare i risparmi di gestione e usarli anche per valorizzare il merito, ma non è mai stata applicata. Ha spiegato la questione normativa Paolo Coppola, segretario regionale di Azione, sottolineando che l'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale obbliga ogni anno a calcolare i risparmi della digitalizzazione e a destinarne 2/3 alla premialità dei dipendenti. Dal 2011 la norma è rimasta inattuata, facendo perdere risorse reali proprio mentre il PNRR sta per concludersi. Per Mauro Cenci, segretario regionale della funzione pubblica CGIL, è il momento giusto per riaprire il tema del salario accessorio. I risparmi esistono e la legge ne prevede la redistribuzione, ha detto Cenci, ma il blocco imposto dal tetto del 2016 crea un cortocircuito normativo che va superato. Il sindacato e il partito propongono una campagna nei luoghi di lavoro con assemblee in tutta la regione per informare i dipendenti pubblici sui diritti previsti dalla legge. Parallelamente sarà avviata una raccolta firme rivolta al Parlamento per superare i tetti di spesa del 2016 e consentire l'ingresso dei risparmi digitali nei fondi di salario accessorio. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella prima riunione del nuovo comitato esecutivo, la Confederazione delle Organizzazioni Slovene ha rieletto l'attuale presidente Walter Bandelli, confermando così la fiducia nel suo lavoro, svolto finora nella direzione intrapresa dall'organizzazione secondo le direttive delle ultime assemblee. Sotto la guida di Walter Bandelli, il Consiglio ha rafforzato la cooperazione tra le organizzazioni slovene, ha rappresentato i loro interessi comuni e ha contribuito a consolidare il ruolo della comunità slovena nel più ampio contesto sociale. Nel nuovo mandato, la Confederazione continuerà il suo lavoro nel campo della rappresentanza dei diritti degli sloveni in Italia, dello sviluppo culturale e linguistico, della collaborazione con le istituzioni, con particolare attenzione al dialogo, all'integrazione e allo sviluppo a lungo termine. Un appuntamento politico, sono 70 gli iscritti al corso di alta formazione amministrativa che comincia questa sera alle 18 a Trieste, nella sede dei pensionati della CGIL, un percorso per chi è interessato a candidarsi alle prossime elezioni comunali e vuole capire meglio il funzionamento dell'amministrazione comunale. Il corso è gratuito, aperto a tutti, suddiviso in 7 moduli in presenza anche a distanza e terminerà a giugno. Ad organizzarlo il forum formazione politica del PD. In carne ai giovani hanno bisogno di socializzazione e di esperienze. La cooperativa Itaca risponde ai loro bisogni con una serie di progetti, tra cui il laboratorio giornalistico dal titolo Redazione Provvisoria. Sono molto affezionato al mio territorio e quindi io penso che, anche se magari in futuro potrebbe essere difficile, penso che il futuro comunque ci siano opportunità in carne. Mattias ha 18 anni ed è uno dei giornalisti della Redazione Provvisoria, il progetto dedicato agli adolescenti tra i 14 e i 19 anni. Uno dei tanti percorsi rivolti ai giovani e agli anziani e proposti dalla cooperativa Itaca per conto dei servizi sociali dei comuni dell'ambito territoriale della Carnia. Sara Burba, della cooperativa Itaca. Lo sviluppo di comunità passa attraverso la coprogettazione, il coinvolgimento delle comunità, dei giovani, dei cittadini e delle organizzazioni, e in particolare si vuole promuovere il senso di appartenenza e in particolare attraverso la costruzione di legami significativi, attraverso anche la formazione di rete tra le scuole, tra i cittadini, tra le organizzazioni. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, di integrazione, socializzazione, di esperienze. A dirlo è Alessia Gallizia, educatrice da 10 anni. La Carnia è composta da piccoli paesi, la difficoltà è lo spostamento coi mezzi per i ragazzi, il ritrovo di centri di aggregazione, ce ne sono pochi, attività ricreative, sportive, formative. Con questi progetti cerchiamo di dare spazio ai ragazzi, di dar voce, farli sentire e far fare loro delle belle esperienze. Redazione Provvisoria è uno dei progetti dedicati agli adolescenti che hanno appena pubblicato online il numero zero, come ci spiega Mattias Baschiera. È stata un'esperienza per me è importante perché mi ha dato l'opportunità di fare nuove attività come la scrittura, di approfondire nuovi argomenti e come numero appunto abbiamo toccato vari argomenti, dallo spopolamento alle interviste a degli artisti locali o a persone diciamo rilevanti all'interno della comunità carnica. Tolmezzo e Vaciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Craft di Spilimbergo la nuova mostra dedicata alla fotografia contemporanea On Borders, sui confini. È visitabile fino al 15 marzo nel 600esco Palazzo Taddea di Spilimbergo la nuova mostra fotografica del CRAF On Borders sui confini 2, secondo capitolo espositivo dedicato alla collezione costruita in oltre 30 anni dall'Associazione Emiliana Linea di Confine per la fotografia contemporanea. Il curatore del programma di fotografia contemporanea del CRAF, Andrea Pertoldeo. Linea di Confine è un'associazione simile al CRAF che ha sede in Emilia-Romagna e che nella sua storia ha deciso di chiamare fotografi di peso internazionale e nazionale, italiani e stranieri, a lavorare su alcuni temi pregnanti sul territorio. Si chiama proprio linea di confine perché ha sempre lavorato sui margini, sui territori in trasformazione. Un percorso di oltre 260 fotografie allestito in 3 sale nel grande salone monumentale. C'è la via Emilia nella sala dove ci troviamo, qui per esempio c'è Olivo Barbieri, poi c'è una sala con la linea veloce Bologna-Milano e poi un'altra sala con il progetto su il deserto rosso di Michelangelo Antonioni. Invece nel salone centrale c'è un grande tavolo che mostra i laboratori che Linea di Confine ha organizzato con sempre autori molto noti che nel corso degli anni hanno lavorato insieme a degli studenti che volevano iscriversi a questi laboratori. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport con il calcio nel turno infrasettimanale della Serie A. Torniamo sulla convincente vittoria dell'Udinese che ha battuto in trasferta il Torino per 2-1 con il commento post partita di mister Rugnaic. Yeah, first of all I'm very happy about this win. Sono molto felice della vittoria e della prestazione perché abbiamo fatto una partita solida fin dall'inizio. Siamo ripartiti dall'assetto del secondo tempo di Como, con Miller e Karlström riuscivamo a controllare meglio il centrocampo, eravamo anche molto più sicuri con la palla nei piedi. Siamo in un processo di adattamento per tanti motivi, ma sicuramente oggi abbiamo giocato una partita seria e continua dall'inizio alla fine. La vittoria è stata molto meritata, peccato aver sofferto gli ultimi 4 minuti, ma anche questo fa parte del processo, ma siamo molto felici per la prima vittoria del 2026. We are very happy about these 25 points. Siamo molto felici di questi 25 punti, dal mio punto di vista potevamo averne anche 2 o 3 in più, ma magari oggi senza una vittoria avremmo girato a 23 punti, per cui in generale direi che la classifica rispecchia il nostro livello attuale. Siamo in costante evoluzione con tanti giocatori che hanno poco trascorso di Serie A in termini di minutaggio. Insieme a Parma, Lecce e Como siamo le squadre meno esperte in questo fondamentale. Sappiamo qual è il nostro potenziale, chiediamo fermamente la nostra crescita e miglioreremo col tempo e saremo sempre più stabili. Vittorie come quelle di oggi sono molto importanti per questo processo. L'obiettivo è quello di far più punti dello scorso anno, magari, perché no, provare ad arrivare nella parte sinistra della classifica, ma sappiamo che sarà una sfida molto dura perché la Serie A è di grande livello, è un campionato molto competitivo, però ci lavoriamo e ci crediamo. E per il basket, la corsa europea della Pallacanestro Trieste entra nella sua fase decisiva dopo la qualificazione ai play-in di Basketball Champions League, la vittoria della gara 1 sul campo dello Szolnoki per 62-82, e in programma oggi la gara 2 con gli stessi ungheresi alle 20 al Pala Trieste. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin e Bruno Montevecchi. Da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.